alle mura, alle torri, alle bastite, agli armati custodi, alle scorte notturne furono prima cagione le tirannidi cittadine, poi le insidie e gli insulti degli eterni nemici. Delle quali cose io per modo mi sento costretto a parlare, perché tanto via conservo la memoria dell'antica Bologna, che quest'ora vedendo, mi sembra quasi sognare, ne vorrei ai miei occhi dar fede. Francesco Petrarca. Il pane della conoscenza.